giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Uomini e mezzi dei vigili del fuoco e della protezione civile del Friuli Venezia Giulia in soccorso delle popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna e a supporto del personale in servizio da giorni per far fronte all'emergenza. Monitoraggio delle situazioni a rischio, smassamento del fango e del materiale franoso, pulizia delle vie di comunicazione, gli impegni principali. I prefetti del Friuli Venezia Giulia convocati nel pomeriggio a Trieste per incontrare Valerio Valenti, il prefetto in passato in servizio nel capoluogo e oggi commissario di governo per l'emergenza migranti, torna in regione per definire il luogo e le modalità di un hotspot. Tubature dell'acqua che si rompono perché vecchie e sottoposte ad alta pressione. Succede a Trieste, dove l'ultimo clamoroso episodio ha visto l'allagamento di via Mazzini e delle strade limitrofe. Con Acegas APS AMGA abbiamo fatto il punto sugli interventi in atto. Dal 2024 il canone degli alloggi ATER sarà calcolato in base ai componenti del nucleo familiare e all'indicatore della situazione economica equivalente, cioè l'ISEE. A questo scopo l'ATER di Udine avvia un censimento fra gli inquilini dei 7.630 alloggi di edilizia sovvenzionata. La matematica che mi perseguita, cantava Jovanotti nel nostro giornale radio, una delle migliori menti matematiche europee. L'italiana Cristiana De Filippis, ospite oggi a Udine, spiega perché va studiata con costanza fin dalla scuola elementare. Il Requiem di Verdi, che mancava da Trieste da quasi 10 anni, torna stasera al Teatro Lirico per un concerto che ha un obiettivo: raccogliere fondi per contribuire a salvare Villa Sant'Agata, l'ultima dimora del compositore di Busseto, non più aperta al pubblico. Abbiamo intervistato il sovrintendente del Verdi di Trieste, Giuliano Polo. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Eva Ciuc e Antonio Cagliazza. Una 50 fra funzionari, tecnici e volontari di protezione civile, una 10 di vigili del fuoco. Anche dal Friuli Venezia Giulia è in atto l'invio di uomini e mezzi a supporto dei soccorritori in azione in Emilia e Romagna. No, questo servizio non è ancora pronto, lo attendiamo, lo parcheggiamo lì, andiamo intanto avanti. E dunque parliamo dei prefetti del Friuli Venezia Giulia che si ritrovano questo pomeriggio a Trieste per incontrare Valerio Valenti, il commissario straordinario per lo stato d'emergenza sui migranti. Valenti, ex prefetto di Trieste, era già stato in regione dove aveva incontrato i responsabili delle prefetture, ma anche i rappresentanti politici dei comuni allo scopo di individuare aree in cui realizzare un hotspot. Nei giorni scorsi era stata ventilata l'ipotesi di un centro fra Udine e Trieste. L'incontro di oggi dovrebbe essere operativo. Sul tavolo, cioè, dovrebbero esserci le ipotesi concrete formulate dalle varie istituzioni. E ora il servizio dei vigili del fuoco, partiti stamattina dal Friuli Venezia Giulia in soccorso alle popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna. Messaggio gratuito. Il cliente delle chiamate. Squillano a vuoto i telefoni satellitari dei funzionari della protezione civile impegnati tra Forlì e Predappio. Anche la sala operativa di Palmanova ha difficoltà a stabilire le comunicazioni. Dopo vari tentativi riusciamo a prendere la linea. La stazione è in funzione e siamo coordinati dalle autorità locali, per cui ci atteniamo alle loro indicazioni. Sappiamo che appunto sono in arrivo dei volontari dal Friuli. In totale finora sono partiti 49 volontari e 10 funzionari della protezione civile, in diversi gruppi, da lunedì. Gli ultimi 30 questa mattina, con loro una 20 di mezzi e un'idrovora speciale, unica in Italia, in grado di movimentare dai 400 ai 600 metri cubi l'ora di acqua melmosa e fango. 7 uomini si occuperanno solamente di questa motopompa. Maria Teresa Pletto, del coordinamento volontariato. Ci arrivano a portale informatico, raccogliamo le disponibilità sia di tutti i volontari che sono pronti a partire con i relativi mezzi. Una volta che abbiamo raccolto la disponibilità, creiamo proprio le squadre che vengono poi attivate. La chiamata che arriva alla sera, l'indomani alle 7 la partenza. Dopo una riunione operativa, le squadre da 2 o da 4 sono formate per comuni di provenienza o per specialità. Esperti scavatori, elettricisti e specialisti in intervento interventi idraulici, mulettisti per la movimentazione della terra, unità operative flessibili pensate per un'emergenza in evoluzione. Da altre regioni arrivano i nuclei sommozzatori e i gommoni. Dopo una settimana sarà previsto il cambio turno. L'emergenza climatica ha effetti immediati sul sistema emergenziale di tutte le regioni. Riccardo Riccardi, assessore regionale con delega alla protezione civile. Passiamo da momenti nei quali non abbiamo l'acqua a momenti nei quali ne abbiamo fin troppa. Quindi è chiaro che misure e scelte non è il tempo di non scegliere più. Questo io penso che sia indispensabile fare. In Emilia-Romagna, impegnati anche 11 uomini dei Vigili del Fuoco, dei vari comandi regionali del Friuli Venezia Giulia. Palmanova, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Piena vicinanza all'Emilia-Romagna e alle Marche, seguo da vicino l'evolversi di queste drammatiche ore. Ringrazio la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia e coloro che da ogni regione d'Italia si stanno spendendo con coraggio e solidarietà. Questo è un comunicato emesso poco fa dal Vice Ministro all'Ambiente e alla Sicurezza Energetica, Vannia Gava. L'Electrolux di Porcia ferma la produzione da domani fino al 29 maggio. La necessità di una prolungata sospensione dell'attività produttiva è stata comunicata ieri dall'azienda nel corso di un incontro con le rappresentanze sindacali unitarie convocato con urgenza dalla direzione. Alla base della decisione, che riguarderebbe anche gli altri stabilimenti del gruppo, anche se con diverse modalità, il calo dei volumi di vendita. Prevista la copertura della cassa integrazione, l'orario di lavoro è stato ridotto dalle 8 alle 6 ore al giorno. Preoccupati i sindacati che hanno già fatto appello alle istituzioni e chiedono all'azienda maggiore chiarezza. Il 30 maggio è prevista una riunione di coordinamento. La dispersione idrica a Trieste supera il 40%, una perdita di risorse ambientale ed economica notevole. E poi ci sono le rotture delle tubature, come quella recentissima avvenuta in Piazza della Repubblica. Perché accade questo e che cosa si sta facendo per porvi rimedio? Tubature dell'acqua che si rompono. A Trieste un problema dovuto a vari fattori. Lo spiega Giovanni Piccoli, direttore reti di Acegas APS AMGA. Una rete vetusta, ma anche le alte pressioni dovute alla morfologia della città che arrivano fino a 10 bar. Le sollecitazioni del terreno per i passaggi dei mezzi in Piazza Repubblica, questo è stato sicuramente un fattore. E poi gli effetti climatici, come le basse temperature invernali o l'alternanza di siccità e piovosità fino alla franosità del terreno. La situazione però sta migliorando. Si è passati da una rottura ogni 2 chilometri fino al 2019 ad una ogni 4 chilometri. C'è un piano di interventi che deve però tener conto dell'impossibilità di sostituire tutte le tubature di una rete in un sistema stradale di 300 chilometri. Giovanni Piccoli, direttore reti Acegas APS AMGA. La parte vetusta, quella realizzata in ghisa grigia, ammonta circa il 20%, quindi comunque parliamo di 200 chilometri. Mettere mano in una città come Trieste a 200 chilometri di cantiere stradale vuol dire paralizzare la città. Stiamo utilizzando diverse tecnologie e stiamo soprattutto mettendo un effort economico che sia assorbibile anche dalle tariffe. La dispersione idrica supera il 40%, una perdita di risorse ambientale ed economica. Nel PNRR previsti dei fondi per gli interventi, 37 milioni di euro a livello regionale. La quota triestina, chiamiamola così, di Acegas è di circa 7 milioni di euro, ma che si va ad aggiungere agli 11 milioni di euro medi annui che vengono già previsti dal piano degli interventi stabilito in accordo tanto con Ausir quanto con i comuni interessati dalle attività. Per prevenire le rotture la rete viene suddivisa in porzioni indipendenti con l'osservazione dei consumi notturni. La tecnologia inoltre prevede dei transitori di pressione per individuare i punti deboli fino ai rilievi aerofotogrammetrici. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'Università degli Studi di Trieste ha inaugurato un nuovo laboratorio all'avanguardia, il laboratorio del gruppo Optimato, allestito ad Elettra Sincrotrone e guidato dal fisico di fama internazionale Pierre Thibault, professore ordinario di fisica applicata all'Ateneo Giuliano. Un braccio robotomizzato che impugna per esempio una conchiglia e la sottopone a raggi X di nuova generazione, passando attraverso l'utilizzo di una semplice carta vetrata che frammenta il fascio di luce, portando con sé caratteristiche inedite della materia. È un imaging molto più dettagliato quello che esce dal nuovo laboratorio dell'Università di Trieste inaugurato stamane ad Elettra Sincrotrone. Si chiama Optimato ed è guidato dal fisico di fama internazionale Pierre Thibault, professore ordinario di fisica applicata all'Ateneo di Trieste. richieste. A lui chiediamo un esempio pratico: dove questa nuova tecnologia potrà fare davvero la differenza, pensiamo, in ambito medico? In ambito medico un esempio è di fare quello che chiamiamo l'istologia virtuale, dove una biopsia può essere presa da un paziente e poi, invece di tagliare a pezzi come si fa adesso, si porta nel nostro sistema e poi si può rivelare subito se ci sono tessuti sani o no. Si potrà lavorare direttamente in ospedale così, forse? Per ora no, perché il nostro laboratorio non è veramente mobile, ma quando il sistema diventa ben dimostrato possiamo portarlo sì in ospedali dopo. E poi per esempio anche in ambito marino potete studiare meglio gli animali marini, vedere anche come il cambiamento climatico sta influenzando. Allora, in generale quello che siamo capaci di vedere, usiamo quello che si chiama il contrasto di fase, e siamo capaci di vedere meglio i tessuti molto più leggeri, i tessuti morbidi dei animali in generale, quindi siamo capaci di vedere effetti molto più deboli, effetti più piccoli che quelli che si vedono con metodi convenzionali. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. La Polizia Stradale di Palmanova ha scoperto venerdì scorso, nel corso di controlli eseguiti in A4 in occasione della adunata degli alpini, denaro contante, monili in oro e pietre preziose per un valore di circa 40.000 euro nascosti in una borsa a bordo di un'auto immatricolata all'estero e guidata da due stranieri. L'auto era stata fermata nell'area di servizio di Gonar Sud. Il bottino era stato sottratto a malcapitati cittadini, fra cui un'anziana residente a Sestri Levante, che aveva sporto querela in cui dichiarava di essere stata vittima di una truffa nel pomeriggio di mercoledì scorso. Una giovane donna l'aveva chiamata al telefono inducendola a raccogliere oggetti di valore e denaro contante custodito nella propria abitazione e a consegnarli ad un'altra persona che l'attendeva nei paraggi del proprio domicilio. La Polizia di Stato vuole sensibilizzare la popolazione ed in particolare i nostri anziani a diffidare di contatti con persone sconosciute e non dare seguito a richieste relative a somme di denaro o altri beni, ma chiamare immediatamente le forze di polizia tramite il numero di emergenza 112. E torniamo a parlare ora del nuovo macchinario Prodigy acquistato dall'ospedale infantile Burlo di Trieste grazie ad una donazione dell'associazione Agmen. Stamattina a Buongiorno Regione abbiamo parlato dell'importanza di questo strumento nelle cure dei piccoli pazienti affetti da tumore. Un passo avanti nella lotta ai tumori del sangue, grazie alla possibilità di realizzare terapie cellulari mirate, ma non solo. Il nuovo macchinario Prodigy a disposizione del Burlo di Trieste permette di far fronte alle complicanze virali nei pazienti immunodepressi che si sottopongono al trapianto di midollo, evitando lunghi ricoveri e disagi per i bambini e le loro famiglie. Natalia Maximova, responsabile del centro trapianti del Burlo. Potendo produrre linfociti virus specifici, noi ridurriamo di moltissimo l'incidenza di reattivazione virale nel corso post-trapianto e soprattutto possiamo ridurre gli effetti negativi del trattamento di queste reattivazioni virali, perché farmaci che usiamo spesso sono tossici, non privi di effetti collaterali. Alla fine di marzo la macchina è stata usata per un trapianto a favore di un bimbo di 6 mesi. Abbiamo usato questa macchina per un trapianto d'urgenza eseguito su un piccolissimo paziente affetto da una malattia molto molto rara, una sindrome di immunodeficienza congenita, che per la sua definizione non poteva essere sottoposto a un trapianto usando i farmaci che usiamo normalmente post-trapianto. Il Prodigy è solo una delle innovazioni della ricerca e della tecnologia che stanno cambiando gli interventi e le terapie del centro trapianti. Abbiamo significativamente ridotto sia mortalità sia morbidità del trapianto. Adesso usando per esempio i donatori familiari parzialmente compatibili come i genitori, noi abbiamo ridotto mortalità dal trapianto a circa 10%, cioè paragonabile a una mortalità da un trapianto da un familiare compatibile. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Al via in Friuli il censimento degli inquilini degli alloggi ATER di edilizia sovvenzionata si concluderà entro agosto e servirà a definire i parametri per i canoni di locazione dal 2024. Prende il via in questi giorni dall'ATER di Udine il censimento 2023 degli inquilini dei 7.630 alloggi di edilizia sovvenzionata. L'azienda territoriale per l'edilizia residenziale ha pensato di avvisare anzitempo i destinatari che presto riceveranno una lettera e un apposito modulo precompilato. Obiettivo dell'operazione è verificare i componenti del nucleo familiare e l'indicatore della situazione economica equivalente, ovvero all'ISEE, allo scopo di calcolare il canone di locazione per il biennio 2024-2025. Dal 1 gennaio 2024, infatti, il canone dell'alloggio locato verrà calcolato sulla base dell'attestazione ISEE ordinario, priva di omissioni e difformità, sottolinea l'ATER, formulata nel corso dell'anno. È riferita a tutti i componenti del nucleo familiare. Il modulo dovrà essere verificato, compilato, seguendo le istruzioni riportate sul retro della lettera, con i dati richiesti e sottoscritto. Nel dettaglio, l'assegnatario sarà chiamato a verificare i dati a disposizione dell'azienda, evidenziando eventuali variazioni intervenute nella composizione del proprio nucleo familiare e dichiarando lo stato occupazionale di tutti i componenti e l'importo dell'ISEE ordinario e in corso di validità posseduto dagli stessi componenti. All'assegnatario si richiede inoltre di compilare la sezione del modulo relativa alla titolarità in capo a se stesso e a tutti gli altri componenti di diritti reali come altre proprietà, nude proprietà o usufrutto su alloggi, anche per quote ubicate in Italia o all'estero. Infine, il modulo sottoscritto dovrà essere allegato alla fotocopia di un documento di riconoscimento dell'intestitario dell'alloggio e l'attestazione ISEE ordinario. L'ATER di Udine prevede di concludere tutte le procedure entro fine agosto. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Cosa cambia per le società sportive con l'introduzione della figura del lavoratore sportivo introdotto nel decreto legge in vigore dal prossimo 1 luglio? Spiegazioni ed approfondimenti saranno presentati dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate e del CONI regionale alle 18 al Convention Center di Trieste in Porto Vecchio. Siamo alla pagina del tempo, il cielo è da nuvoloso a coperto sulla regione. Queste le temperature: a Trieste 16 gradi, con vento da est-nord-est bora a 32 km orari, con raffiche che hanno raggiunto i 71 km orari. Gorizia 14 gradi, Udine 16 e mezzo, Pordenone 17 gradi, in montagna Sappada e Tarvisio 10 gradi e mezzo, a Forni di Sopra e Piancavallo 11 gradi, a Tolmezzo 13 gradi e mezzo, in quota sul Monte Lussari 3 gradi, sullo Zoncolan 5 gradi e mezzo, sulla costa Lignano 15 gradi e mezzo, a Grado 16 e mezzo. Previsioni nelle prossime ore: cielo in genere coperto con piogge sparse e intermittenti, in genere moderate, quota neve sui 1700 metri circa, soffierà bora moderata in pianura sostenuta sulla costa e vento da sud-est a tratti sostenuto in quota. Dal pomeriggio possibile qualche schiarita su pianura e costa. Espressione del meglio della matematica europea tra le giovani generazioni, tanto da essere selezionata tra i 30 membri della European Mathematical Society Young Academy, che è premiata anche dall'Accademia Nazionale dei Lincei. La ricercatrice Cristiana De Filippis, 30 anni, docente dell'Università di Parma, e sarà ospite dell'Ateneo Friulano oggi alle 15 nell'auditorium della Biblioteca Scientifica e Tecnologica del Polo dei Rizzi. Un percorso accademico e personale, quello di Cristiana De Filippis, fatto di tanti riconoscimenti internazionali, ma lei ha deciso di continuare le sue ricerche in Italia. Conoscevo il livello della ricerca in Italia, sapevo essere molto alto e soprattutto esserci ricercatori di primo livello che sono punti di riferimento mondiale per certi temi di ricerca. E insomma, ho provato il concorso a Parma, dove sapevo esserci un gruppo di calcolo delle variazioni molto forte con risultati di impatto internazionale. Se va, se no torno all'estero. È andata bene. La matematica viene applicata un po' in tutti i campi, forse neanche lo immaginiamo. Previsioni meteo, descrizioni di pandemie, comportamento di fluidi, scolamento di materiali a diversa densità, insomma, è sostanzialmente ovunque. Parliamo della matematica, spesso considerata dagli studenti fin dalla tenera età la materia più ostica. Come far piacere la matematica? È un problema di insegnanti, di come viene trasmessa questa materia? la matematica non è una cosa che si può imparare a memoria o che, non lo so, devo partire da un certo punto e poi recuperare tutto il programma. Se non ho una panoramica generale di tutto quello che c'era prima, non posso, ecco, partire da un punto e andare avanti. Quindi secondo me la difficoltà è quella, ecco, non può avere un approccio mnemonico. Si punta di più all'insegnamento scientifico in altri paesi rispetto all'Italia? Si potrebbe fare di più nel nostro paese? Sicuramente si può fare di più sia dal punto di vista dell'insegnamento che dal punto di vista della ricerca, perché in ogni modo la matematica ti fornisce delle categorie per interpretare la realtà. In molti paesi all'estero certamente si fa meglio, in altri si fa peggio, ma questo non è un motivo per non fare di più, ecco. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Due incontri a Udine permetteranno di conoscere obiettivi formativi e modalità di ammissione dei dottorati di ricerca dell'Ateneo Friulano. Il primo si terrà oggi alle 16 a Palazzo Antonini e riguarderà le aree umanistica, linguistica ed economico-giuridica. Il secondo invece avrà luogo domani alle 16.30 e interesserà le aree tecnico-scientifica, agroalimentare e medica. Le domande per partecipare al concorso di dottorato dovranno essere presentate entro le 14 di giovedì 22 giugno. Al Teatro Verdi di Pordenone torna per l'ottavo anno consecutivo l'orchestra giovanile Gustav Mahler, che seleziona i migliori giovani musicisti europei. Grande attesa per il concerto di dopodomani. Nel pomeriggio di oggi si terranno le prove aperte al pubblico. Sono arrivati a Pordenone i 120 musicisti europei, tutti tra i 18 e i 26 anni, per la nuova residenza al Teatro Verdi della prestigiosa orchestra giovanile Gustav Mahler. Alexander Meraviglia Crivelli è segretario generale dell'orchestra. Ogni anno scegliamo i migliori musicisti in tutta l'Europa, in audizione in più di 25 città, poi mettiamo insieme un'orchestra che arriva qui, tutti freschi, tutti nuovi, e si lavora fino all'inizio in prove a sezioni, poi col direttore assistente finché arrivi il direttore invitato. L'appoggio e la collaborazione con Pordenone per noi sono chiavi. Questa attività non sarebbe possibile senza l'appoggio e la collaborazione sia col teatro e sia con la regione. Lucia Molinari, violoncellista. La possibilità di suonare questo grande repertorio con direttori e tutor straordinari e in più condividerlo con ragazzi pieni di entusiasmo è veramente un'esperienza speciale. Il 19 maggio, grande concerto con il maestro Daniele Gatti, programma interamente dedicato a Mahler. I giovani talenti saranno nuovamente in città ad agosto per la residenza estiva. Il presidente del Teatro Verdi di Pordenone, Giovanni Lessio. Abbiamo delle iniziative insieme che si svilupperanno nel tempo anche per la promozione dei giovani talenti artistici, non solo legati all'orchestra ma anche proprio a tutto il mondo europeo, per cui Pordenone con questa collaborazione diventerà veramente la città di riferimento per tutti i giovani amanti della musica classica. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Requiem di Verdi per salvare Villa Sant'Agata. Il Teatro Lirico di Trieste mette in campo la sua orchestra e il suo coro per un concerto straordinario stasera alle 19. Il ricavato andrà allo Stato, che intende acquisire la storica dimora museo del compositore nella campagna emiliana. Il Requiem di Verdi mancava da Trieste da quasi 10 anni e la più grande tra le creazioni non operistiche del maestro di Busseto questa volta ritorna per salvare la Villa Museo in provincia di Piacenza, che è chiusa dallo scorso ottobre ed è stata messa all'asta dal Tribunale a causa di un contrasto fra gli eredi. Le 14 fondazioni liriche italiane stanno organizzando altrettanti concerti e spettacoli per sostenere economicamente e non solo l'iniziativa del Ministero della Cultura, che punta ad acquisire la villa rendendola patrimonio pubblico, con l'intenzione, spiega il sovrintendente del Verdi di Trieste Giuliano Polo, di diffondere la pratica della sovvenzione privata e volontaria al teatro musicale. Questo è un aspetto molto importante anche della legge costitutiva di queste fondazioni, che fa riferimento alla possibilità di un finanziamento anche da parte di privati. In questo caso è una raccolta fondi estesa e anche le condizioni che abbiamo praticato sono molto favorevoli. Il teatro sarà occupato a riempimento con un biglietto, diciamo, molto economico, quindi contiamo sulla presenza massiccia del pubblico. Paolo spiega anche la scelta di eseguire il Requiem invece di puntare sul classico concerto raccolta di arie celebri. Abbiamo voluto rappresentare quella che è un'icona della produzione del maestro e in realtà in questo modo vogliamo anche valorizzare le nostre componenti stabili, l'orchestra, il coro. Abbiamo quattro solisti di grande rilievo che sono impegnati contemporaneamente nella Turandot che andrà a concludere la stagione lirica nel prossimo fine settimana. Trieste, Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Trieste chiama Belgrado per una coinvolgente full immersion dedicata a grandi compositori e grandi musicisti serbi del nostro tempo. È infatti organizzato in collaborazione con la Facoltà di Musica dell'Università delle Arti di Belgrado l'appuntamento di questa sera alle 20.30 al Conservatorio Tartini dal titolo Music by Serbian Composers, una panoramica del repertorio musicale contemporaneo affidato all'esecuzione di alcuni fra i più noti musicisti serbi. E arriva al Politeama Rossetti di Trieste Dinosaur World Live, un show per famiglie dal successo internazionale nato in Inghilterra. Il sipario alle 20.30, lo spettacolo adatto ad ogni età, interattivo, vede come protagonista italiana l'attrice Romina Colbasso e porta in scena riproduzioni affascinanti dei dinosauri e racconta la loro avventura giurassica. Alle 18.30 il teatro poi propone l'incontro Trieste città dei dinosauri con Deborah Arbulla, paleontologa del Museo Civico di Storia Naturale. E abbiamo concluso questa edizione, sono le 12.56 minuti e 20 secondi. L'assistenza tecnica è stata curata da Roberto Cavallari e da Tommaso Vinoni, ha collaborato in redazione Samantha Gon. Ci fermiamo dunque qui, la nostra informazione torna in televisione col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e poi alla radio col GR delle 15 su questa frequenza. Grazie della cortese attenzione da Eva Ciuc e da Antonio Cagliazza, buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.